Giallo 24. In collaborazione con Giallo Mondadori. A cura di Raffaella Calandra. C'è chi li legge sotto l'ombrellone e chi li segue in TV. C'è chi si appassiona a quelli seriali e chi ogni volta cerca un brivido nuovo. Insomma, il giallo piace, ma quest'estate, se invece di metterli in valigia, li scriveste direttamente voi dei gialli, che dite? Noi diciamo di sì. E dice di sì insieme a noi anche il direttore del giallo Mondadori, Franco Forte. Tutti gli italiani leggono gialli, ma quanti saprebbero risolvere un delitto in 3 minuti? La sfida di Radio 24 e il giallo Mondadori è questa: dare agli appassionati la possibilità di diventare loro, per una volta, gli autori di un mistero in 2 puntate. Una adatta alla radio e una che potrebbe entrare a far parte di un'antologia del giallo Mondadori. Tutti i dettagli su radio24.it e ilgiallomondadori.it. Potete provarci fino a fine luglio, senza paura. Tra i tantissimi manoscritti che abbiamo già ricevuto, abbiamo deciso di iniziare Giallo 24 con una storia siciliana, Asparago Siculo di Salvo Figura. Ah, Salvatore, ma davvero pensavi di potermi fottere la donna e cavartela? Il boss fissa il consigliori e attende. Don Tano, vos si è equivocato, è stato Ronnie a sgozzare lo sbirro. Io sempre il mio dovere ho fatto, replica Salvatore. Il boss mi guarda. Minicu, la pistola. Punto il revolver verso Salvatore, che sbianca. Don Tano mi fa un cenno e io inizio. Salvatore, te la ricordi quella retata della narcotici? Tu stavi a cavallo di lussi in un motel. La tua giacca a scacchi è inconfondibile. Lo sbirro t'ha scoperto, ma ha preferito i soldi a una denuncia. E tu hai iniziato a pagare. Poi però si voleva fottere Lucy, il bastardo. Non voleva nemmeno più i soldi. Nel video lei si vede benissimo a cosce larghe. Lucy, la donna del boss, ascolta pallida e pesta. Si regge in piedi a stento. Allora non ci hai visto più, vero? L'hai sgozzato e gli hai riempito la casa con la roba di Ronnie, mio fratello, per incastrarlo. Poi, con gran sorpresa di tutti, mi rivolgo a Ciccio Ubeddu, il cuoco del boss. Dimmi, era buona la frittata di asparagi? Che dici? Quella è solo mia, mi interrompe Don Tano sorpreso. Ciccio ha l'ordine di non servire a nessuno i miei asparagi. Il boss fa un gesto con la mano, stizzito, a indicare che la questione, per lui, è chiusa. Poi fissa Salvatore e ordina: facciamola finita, Minicu. Spara a sto verme che si è fottuto mia moglie. Io sparo, ma senza spostare l'arma. Brandelli del cervello di Ciccio imbrattano la stanza tra la sorpresa generale, anche di Don Tano. Non è Salvatore il verme, spiego, ma il suo fratellastro Ciccio, che si fotteva Lucy con la sua giacca addosso e ha scannato lo sbirro. Salvatore lo copriva e stava per incastrare Ronnie. Ma Ciccio ha voluto fare il grande. Si è scordato però che gli asparagi siculi danno al piscio una puzza tutta particolare. E io ho il naso fino. Solo Ciccio si poteva mangiare gli asparagi di Don Tano, assaggiandoli mentre cucinava. Lui e nessun altro. Così si è fregato da solo. Una storia di boss e di codici di mafia, dunque, per questo Giallo 24. Cronaca e narrativa, d'altra parte, spesso e sempre più spesso confluiscono nei gialli, ma dipenderà anche dall'abitudine nostrana al retroscena indotta dai tanti misteri irrisolti? Un po' sì e un po' no, secondo l'uomo dei misteri italiani, Carlo Lucarelli. Sì, è vero, noi siamo abituati a pensare male, quindi quando ci ritroviamo dentro una trama, di solito la vediamo con un occhio meno ingenuo. Le nostre trame, le trame dei nostri gialli sono sicuramente meno ingenue, soprattutto per quanto riguarda il potere, la corruzione, cose di questo genere, di quelle di altri paesi probabilmente. Fossimo un popolo che si lascia attrarre così particolarmente dal mistero, avremmo già risolto parecchi dei nostri misteri. Credo che l'attrazione verso il mistero sia universale. Se c'è un'isola nell'oceano, un paradiso terrestre dove mai è avvenuto niente di brutto, comunque anche lì, se c'è una porta socchiusa, un qualche cosa che cigola nel buio, incuriosisce. Il giallo è un genere letterario come tutti gli altri, quindi come tutta la letteratura prende spunto da quello che succede. Per di più la cronaca, soprattutto quella che è nera ovviamente, entra nel romanzo giallo perché è uno spunto perfetto per costruire una trama. Si dice sempre, no, che la realtà supera la fantasia, è talmente vero da essere un luogo comune. C'è un momento in cui Carlo Lucarelli ha scoperto la sua passione così forte per il mistero? Come tutta la mia generazione, io sono degli anni 60, sono stato educato alla paura e al mistero dalla televisione, dagli sceneggiati televisivi. Io ero piccolino, guardavo Belfagor, Il fantasma del Louvre, oppure guardavo Il segno del comando e morivo di paura. E solo che era un morire di paura molto bello e molto divertente. E credo che sia stata questa la nostra educazione sentimentale all'essere paurosi e misteriosi, in senso buono, naturalmente. Giallo 24 torna il prossimo weekend con un nuovo mistero in 3 minuti e nuovi casi che potete riascoltare anche dal sito radio24.it. La nostra pagina Facebook è Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.